Certamente c'era bisogno di modificare alcune parti che lasciavano una certa incertezza nel giudizio, soprattutto che magari finivano per penalizzare quella che era la vittima di un reato o di una rapina, ma non certo in un senso estensivo come questo, dove si finisce per legittimare sempre l'uso delle armi sostanzialmente per contrastare una persona che entra in casa di qualcuno e con la minaccia appunto della violenza ovviamente. Il problema grosso è questo, i dati ci dicono questo, cioè che negli ultimi anni gli omicidi per furti o rapine sono stati di media attorno a 30 all'anno, nel 2016 sono stati 15. Se poi consideriamo invece gli omicidi di tipo passionale o familiare, quelli che avvengono in famiglia, siamo intorno a una media di 50 all'anno, e se consideriamo quelli per lite o rissa siamo più di 80. Cosa intendo dire? Oggi l'ambito di maggior pericolosità non è l'ambito dei furti o delle rapine, ma è l'ambito familiare e interpersonale, in quest'ambito, in questo settore che avvengono i maggiori numero di omicidi. E una legge come quella attuale, che di fatto porterà ad avere molte più armi nelle case degli italiani, porterà come conseguenza quello di avere un forte aumento di omicidi di tipo familiare, passionale, femminicidi e omicidi per il terrorista. Questo è il grosso pericolo. Parlando appunto dell'aumento del numero di armi in circolazione in Italia, quanto è facile o difficile in questo momento ottenere il porto d'armi e quindi possedere poi delle armi? E questo è proprio l'altro aspetto del problema, perché nell'attuale situazione italiana non è affatto difficile ottenere un porto d'armi, è più facile ottenere una licenza per armi che la patente di guida. Per ottenere una licenza per armi è sufficiente essere incensurati, non essere tossicodipendenti o alcolisti cronici, non soffrire di malattie psichiche o tare ereditarie, e fatto un breve esame di maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale, si può ottenere per esempio una licenza di tiro sportivo che permette di detenere in casa 3 pistole, 12 armi sportive, ma non sono armi da sport, ci sono anche in queste 12 armi, sono contemplati anche per esempio fucili semiautomatici, quelli che vengono utilizzati nelle stragi negli Stati Uniti, e numero illimitato di fucili da caccia, con relative munizioni. Tutte queste armi vanno ovviamente denunciate, ma una persona può tenere in casa un piccolo arsenale, e le condizioni sono semplici. È proprio per questo che già oggi vediamo un alto numero di omicidi fatti da legali detentori di armi, e questo è un grossissimo problema che non si sta affrontando. Tra l'altro sarebbe molto importante che il Viminale rilasciasse dei dati precisi e ufficiali proprio sugli omicidi, i tentati omicidi fatti da legali detentori di armi. Noi li stiamo contando come osservatorio sulle armi di Brescia proprio guardando le notizie dei giornali, ma una fonte ufficiale sarebbe necessaria, perché ci accorgeremo che moltissimi omicidi oggi vengono già fatti con armi legalmente detenute. Questo è il grosso problema. Secondo te questo governo, che diciamo non riconosce certi tipi di violenza che tu invece prima citavi come anche più frequenti rispetto agli omicidi in seguito a rapine, per dire, il DDL Pillon previsto non riconosce la possibile violenza del compagno, insomma c'è un problema in questo governo nel riconoscimento di alcuni tipi di violenza. A cosa potrebbe portare questo, unito anche a un clima d'odio crescente e poi insieme anche appunto a una legittimazione forse esagerata della legittima difesa? Questo è un altro dei grossi pericoli, proprio quello che oggi ci accorgiamo, come ce lo dicono tutti i rapporti di studio sulla situazione nazionale, che sta crescendo fortemente un clima di odio, di rancore, di rivalsa nei confronti degli uni degli altri, generato dalla difficoltà economica, tanti fattori, ma questo clima c'è, e oggi appunto permettere di lasciare armi o addirittura incentivare l'acquisto di armi, perché poi di fatto questo disegno di legge, questa legge sulla legittima difesa porterà a questo, a incentivare l'acquisto di armi, significa di fatto armare persone che in un contesto di alto rischio come quello attuale poi possono utilizzarle proprio per commettere omicidi, soprattutto, come dicevo, in ambito familiare e in ambito interpersonale. Il caso di Luca Traini, l'attentatore di Macerata, è esemplare. Luca Traini ha ottenuto una licenza per uso sportivo, non era uno sportivo, non voleva andare alle Olimpiadi, non voleva fare nessuno sport, voleva tenere un'arma in casa. Nel momento in cui si è sentito in qualche modo di avere una certa rivalsa, un certo odio, un certo rancore verso un gruppo di persone che in questo caso erano immigrati, lui ha preso e ha sparato. Ecco, questo è il grossissimo rischio in questa situazione, cioè di armare persone che di fatto, soffrendo di questo clima che c'è oggi in Italia, poi finiscono per commettere delle stragi. In quel caso è stata sfiorata, ma nei prossimi possiamo saperlo, questo è il grave rischio. Qual è invece la soluzione che proponete voi? E noi proponiamo proprio che siccome si sta parlando di legittima difesa, occorre che se si vuole lasciare delle armi in casa appunto per uso di difesa, venga introdotta una nuova licenza, che è quella per uso appunto di armi per difesa abitativa o dell'esercizio commerciale. Occorrerà vedere una serie di requisiti, che non sia troppo facile diciamo ottenere questa licenza, che ci siano un po' di esami anche a livello tossicologico, ma soprattutto che le armi che si possano usare siano armi di tipo difensivo, pensiamo alle taser, o di tipo con un munizionamento che non letale. Ci sono già questo tipo di tipologie di armi e questo tipo appunto di munizionamento, e questo è importante perché se l'arma deve servire a difendermi da un possibile aggressore, posso usarla, mi difenderò, non ammazzerò, soprattutto non ammazzerò qualcun altro con quell'arma, e bloccando in questo modo il possibile aggressore permetterò poi alle forze dell'ordine di intervenire. Quindi se si tocca la legge sulla legittima difesa, va assolutamente modificata la legge sul porto d'armi. Occorre rilasciare una specifica licenza per difesa abitativa e commerciale e non permettere l'uso di armi da fuoco, quelle che invece adesso vengono usate, per difesa abitativa e commerciale. Questo dovrebbe essere considerato un reato.